Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. And the Oscar goes to. And the Golden Globe goes to. And the Grammy goes to. And the Emmy goes to. And the BAFTA is presented to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa memorabile frase che ferma un battito del cuore in quel secondo di attesa che intercorre tra l'annuncio e la proclamazione del vincitore del premio più prestigioso che dal 1929 viene assegnato nel mondo del cinema. Quello per il migliore attore, attrice e protagonista è senza dubbio il premio più atteso, il più emozionante, che proietta il vincitore nell'Olimpo della cinematografia. È difficile non emozionarsi per coloro che a loro volta ci hanno fatto emozionare grazie alla loro intensa interpretazione. Ma non tutti sono d'accordo. Roba da americani, dice qualcuno. Trionfalismo gonfio di retorica, fa eco qualcun altro. Vincono quelli che vogliono le grandi case produttrici, le majors, concludono gli indispettiti. E forse qualcosa di vero c'è. Ma la consegna del premio cambia la vita e la carriera di chi lo riceve, consegna la fama e decreta la fortuna del film da loro interpretato, mentre i nomi dei premiati restano impressi nella mente di chiunque ami il cinema. And the Oscar goes to Roberto Benigni in Life is Beautiful. This is a terrible mistake because I used up all my English. No, I don't know. Oh, this is I don't know how to express. It's a question of love. Grazie all'Italia e grazie all'America. I learned a lot of things here. Thank you very much. And I hope really I don't deserve this. But I hope to win some other Oscars. Thank you. In 80 anni di storia del premio, solo tre italiani hanno stretto tra le mani la mitica statuetta realizzata da George Stanley. L'ultimo, in ordine di tempo, lo abbiamo appena sentito scatenarsi alla premiazione del 21 marzo 1999, grazie all'indimenticabile interpretazione in La vita è bella, nel film da lui stesso diretto. Roberto Benigni è il primo attore italiano in assoluto a vincere per la migliore interpretazione maschile. Prima di lui c'erano riuscite solamente in due donne, due miti inarrivabili del nostro cinema, che per circostanze particolari del destino hanno visto le loro carriere correre su binari paralleli e a un certo punto intrecciarsi per poi continuare in un percorso distinto. Non esistendo criterio migliore per stabilire quale delle due possa vantare una precedenza sull'altra, oggi Destini Incrociati si occupa della loro storia, iniziando dalla prima ad aver vinto l'Oscar. È passata la storia come Nannarella, ma il suo nome è Anna Magnani. Anna Magnani. Alle 5:30 stamattina mi hanno telefonato. Mi dirò che ho creduto che fosse uno scherzo. Allora, dice, abbiamo una grande notizia da darle. Avevo immaginato che era per l'Oscar, però io ho creduto che era uno scherzo e alla fine ho detto, sentite, lasciatemi dormire perché a quest'ora, francamente, i scherzi non sono divertenti. Non è uno scherzo, e Anna lo sa bene, anche se qualche ora prima ha scommesso $100 sulla sua sconfitta. La Magnani teme i lunghi voli e non è a Los Angeles quel 22 marzo 1956 a ritirare il premio di migliore attrice per la splendida interpretazione di Serafina delle Rose nella Rosa tatuata. Al suo posto Marisa Pavan, coprotagonista e a sua volta candidata come attrice non protagonista nello stesso film, e che ricorda così la magica serata. Quando hanno annunciato il nome di Anna Magnani, che aveva vinto l'Oscar come protagonista della Rosa tatuata, io sono saltata su e mi sono messa a correre come non ho mai corso in vita mia. La Rosa tatuata è un film di Daniel Mann, ma scritto da Tennessee Williams come lavoro teatrale per Anna Magnani, la quale, non conoscendo abbastanza l'inglese da poterlo interpretare in teatro, convince il grande drammaturgo a cedere i diritti cinematografici a due condizioni: assegnare la parte di protagonista alla stessa Magnani e realizzare egli stesso la sceneggiatura. Il film vince 3 Oscar e Anna il suo lo strappa alle più quotate Katharine Hepburn e Susan Hayward, malgrado i limiti della dizione. Ma com'è arrivata questa figlia della Roma popolare a conquistare un premio così importante e a rivaleggiare con le più grandi dive americane dell'epoca? Ripercorriamone insieme la storia. Nannarella, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Nannarella, così chiamata affettuosamente dagli amici e qui cantata da un'altra romana doc, Gabriella Ferri, nasce a Roma il 7 marzo 1908. La madre, Marina Magnani, è romagnola. Il padre, di origini calabresi, Anna non lo conosce mai. E alla nascita le viene imposto il cognome materno. Ma anche la madre la lascia presto sola. Marina si trasferisce ad Alessandria d'Egitto con un nuovo compagno e Anna rimane affidata alle cure della nonna materna e di cinque zie in un quartiere della Roma popolare. È proprio la nonna che ama cullare la piccola Anna cantandole spesso Reginella, a spingerla verso l'espressione artistica. Prende lezioni di pianoforte, frequenta per 2 anni il liceo e infine si iscrive alla scuola di recitazione Eleonora Duse presso l'Accademia di Santa Cecilia, diretta da Silvio D'Amico. Siamo nella seconda metà degli anni 20. L'Italia è in piena era fascista e nel cinema è l'epoca dei telefoni bianchi, un cinema improbabile dove tutto, dai luoghi alla scenografia, dai personaggi alle stesse storie raccontate, è inverosimile. E Anna è troppo vera, troppo plebea per poter impersonare le donne di quel mondo surreale. Deve accontentarsi di alcune apparizioni da caratterista. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. A Destini Incrociati stiamo seguendo i primi passi di una popolana romana, povera e senza padre, che come più volte lei stessa ha ricordato, tenta la carriera di attrice a causa soprattutto del grande bisogno di sentirsi amata. Non bella, almeno non nel senso classico del termine, e fin da subito antidiva, cupamente lontana da frivolezze e mondanità, all'apparenza antipatica e a volte scomoda per via di una riservatezza restia alla futilità dell'apparire o del recitare, ma interessata solo a interpretare. E dunque a essere. Questa, in sintesi, è Anna Magnani, Nannarella, così come la ricorda l'amica Marisa Merlini, attrice romana recentemente scomparsa. Era una grande lady, una grande dama, l'opposto di quello che immagina il pubblico. Lei usciva dal portone di Palazzo Altieri, si scavigliava tutta, e ancora la vedo, e diceva: andiamo a fare Magnani. A casa era una donna straordinaria, una grande padrona di casa, l'opposto. Ha creato questo personaggio trasteverino, di quartiere, ma lei era l'opposto. Tra il 1929 e il 1932 la Magnani entra a far parte della compagnia teatrale diretta da Dario Nicodemi ed è durante una tournée in Argentina con la compagnia che Anna perde l'amata nonna. L'addio a quella figura così importante acuisce in lei il senso di solitudine e di abbandono e rafforza quel lato del suo carattere che fa di lei una donna leale e coraggiosa, ma al tempo stesso molto passionale e afflitta da una possessività morbosa che renderà difficili e problematici tutti i legami sentimentali che instaurerà nel corso degli anni successivi. Nel 1934 passa alla rivista con la compagnia di avanspettacolo dei Fratelli De Regge, periodo che segna anche la collaborazione con Totò, insieme al quale scriverà una delle pagine più belle del teatro di rivista in Italia. Ascoltiamoli qualche anno dopo cantare insieme in Risate di gioia, film del 1960 di Mario Monicelli. Geppina, di notte fai il sole e la giorno la tiene già di blu. Geppina, più vive e più muore, la vedi? E non c'è più. Geppina, Geppi, sì. La tua voce, Geppina, Geppi, yes. La tua luce, sei tanto strana ma tu mi piaci? Mi piace tanto così. Nei primi anni 30, mentre l'Europa si avvia verso la pericolosa china che in pochi anni porterà il mondo dentro gli orrori di una nuova guerra, Anna inizia a lavorare nel cinema con piccole parti in drammoni strappalacrime e commedie sentimentali di scarso livello. In questo periodo conosce il regista Goffredo Alessandrini, che sposa nel 1935, dopo un breve periodo di convivenza. Anna crede a questa unione, a cui si dedica con tutte le sue energie, ma la sua gelosia morbosa, motivata dai frequenti tradimenti e dalla superficialità di Nannetto, come lei lo chiamava, fanno naufragare il loro rapporto. Alessandrini, tra l'altro, si dimostra poco comprensivo nei confronti di Anna attrice. La considera infatti bravissima sulle scene teatrali, ma assolutamente non adatta al cinema. E nell'unico film che gira con lei, Cavalleria, del 1936, non le dedica neppure un primo piano. Anna dovrà attendere l'avvento di un nuovo genere per dimostrare tutto il suo valore di interprete, il neorealismo. Cosa abbia rappresentato questo genere per il cinema italiano lo sintetizza con queste parole il regista Ermanno Olmi. Ricordo l'impressione che mi fece prima Roma città aperta e poi poco dopo, qualche anno dopo, Germania anno zero. Bene, il pubblico, come dire, della normale frequentazione della sala cinematografica inizialmente reagì in maniera, un tantinello dubbiosa, ossia non capiva ancora se quel film davvero gli piaceva oppure se non gli piaceva. C'era qualcosa comunque che metteva a disagio lo spettatore. Era il momento in cui si segnava una netta linea di demarcazione fra il grande cinema americano della commedia, dell'avventura, proprio del sogno a 200 lire due film, ecco, con il cinema che ci racconta e nel quale noi ci riconosciamo. Se ci riconosciamo in un divo o una bella ragazza dello star system, è chiaro che rinunciamo noi stessi per essere secondo quel modello del sogno. Bene, il cinema di Rossellini e poi De Sica e altri onesti uomini del neorealismo era un cinema che voleva farci riconoscere nella realtà in cui ci dovevamo riconoscere. Questo cinema diventò, un evento mondiale che in qualche modo riportò il cinema nell'alveo di una delle sue possibilità più nobili. È infatti con Roma città aperta del 1946 che Anna Magnani rivela finalmente il suo straordinario talento drammatico. Nel film di Roberto Rossellini, con il quale inizia una burrascosa ma intensa relazione affettiva, Anna è Pina, popolana romana uccisa dai nazisti mentre tenta di raggiungere il camion sul quale il suo uomo, impegnato nella resistenza, sta per essere deportato. Anna, con il suo volto vero e addolorato, diventa il simbolo di questo film e lo considera il suo lavoro più sofferto e complesso, tanto che in seguito si rifiuterà sempre di rivederlo. La sua interpretazione le frutta il primo di 5 nastri d'argento e la sua rincorsa disperata del camion sul quale i nazisti stanno deportando il marito resta impressa nella storia del nostro cinema. Bombardarono questa città e la tua sigaretta durò tra le dita un'eternità. Con la scena finale di Roma città aperta, in cui muore falciata da una mitragliatrice tedesca, Anna Magnani ci regala uno dei momenti cinematografici più emozionanti di sempre. Lo sguardo intenso e fiero, gli occhi lucenti sopra le occhiaie peste, il corpo minuto dal seno generoso, ne fanno un nuovo modello di attrice che avrebbe rappresentato il nostro paese per molti anni. La carriera di Anna Magnani, alla fine degli anni 40, è ormai decollata. Dopo la fine del matrimonio e della breve storia d'amore con l'attore Massimo Serato, dal quale ha avuto il suo primo e unico figlio, Luca, torna al lavoro a interpretare una donna del popolo in L'onorevole Angelina, nel 1947. E ancora per Rossellini l'anno seguente con L'amore, nel quale si cimenta in un grande pezzo di bravura interpretativa, nella telefonata di una donna abbandonata dall'amante. Tutte grandi interpretazioni, che la trasformano nell'attrice italiana più richiesta dai registi dell'epoca. Iniziati gli anni 50, Anna si incammina con il suo piglio romanesco lungo la strada dell'immortalità. Nel 1951 è Luchino Visconti a chiamarla a interpretare un altro ruolo che resterà indimenticabile, quello di Maddalena Cecconi, una donna di borgata che trasmette le sue illusioni e i sogni infranti nell'impossibile carriera cinematografica della figlia, a costo anche di mettere in crisi il suo matrimonio. Il film, che vale ad Anna il nastro d'argento, si intitola Bellissima. E come la volete la ragazzina, coi capelli ricci o coi capelli tesi? Che ha da fischiarlesse, deve zagagliare, come per farete di più? Non vi siete divertiti abbastanza, tutti. Quanto mi dispiace perché mi piaciate. Non l'ho messa al mondo per far divertire nessuno. Per me suo padre è tanto bello. È tanto bello. Ciao, andate, che va, svegliate. Andate via da qua. Aspetta, tu che aspetti? Addio a sti signori, che tu piano non farà mai il cinema da qui. Caccia via. Cacciali via, spartano. Anna Magnani strappa lacrime e sorrisi. E nonostante l'accentuata romanità delle sue interpretazioni, arriva a tutti trasversalmente, in ogni parte d'Italia, ma non solo. Nel 1954, l'anno in cui la RAI dà il via alle prime trasmissioni regolari, in un'Italia che cambia e che esce definitivamente dall'indigenza del dopoguerra, Anna vola in America per presentare Bellissima. Ma lo fa malvolentieri. Non ama allontanarsi da Roma, lasciare il piccolo Luca solo, ma non può evitare l'abbraccio dei colleghi d'oltreoceano. A New York incontra Bette Davis, Marlon Brando e soprattutto la stampa americana, entusiasta di lei e del film. Il trionfo americano è solo il preludio di ciò che avverrà due anni dopo, quando il 22 marzo 1956 Marisa Pavan ritira l'Oscar per Anna a Los Angeles. So happy. I know you are, I know you are. Oh, Anna, I wish you could be here. She would be so happy. La Magnani è la prima in assoluto a vincere per l'Italia e curiosamente in un film nel quale recita in lingua inglese. Senza l'aiuto del romanesco, conquista il mondo grazie a un'interpretazione straordinaria e nonostante le difficoltà linguistiche. Anna, per tutti gli anni 50, è la signora incontrastata del cinema italiano ed è a lei che pensa Vittorio De Sica al momento di scegliere la protagonista per la trasposizione cinematografica del romanzo di Alberto Moravia La Ciociara. La ciociara è Cesira, una donna del popolo che all'inizio dei bombardamenti sulla capitale si rifugia insieme alla figlia tredicenne Rosetta nel suo paese d'origine, in Ciociaria. Quando il pericolo sembra scongiurato, le due donne sulla via del ritorno incrociano un manipolo di soldati alleati nei pressi di una chiesa e sono brutalmente violentate. Questa è l'estrema sintesi, ma la storia è intrisa della disperazione di una devastante vicenda umana. Il ruolo è perfetto per Anna, che viene immediatamente contattata. Lei ha letto il libro nel 57 e l'ha amato, piangendo lacrime di immedesimazione materna. Il figlio Luca, infatti, è solo di poco più grande della ragazzina descritta da Moravia e porta ancora i segni della poliomielite contratta da bambino. È pronta a firmare, ma c'è un problema. Il ruolo della figlia, le dicono, sarà affidato a un'attrice emergente del cinema italiano, moglie di uno dei produttori, Carlo Ponti. Tutto si ferma. Anna è perplessa, anzi del tutto contrariata. La ritiene inadatta al ruolo, troppo bella, troppo alta, in contrasto con lo scricciolo descritto da Moravia nel libro. Si mormora anche che Anna sia gelosa di lei, che potrebbe farle ombra e che è già troppo famosa nonostante abbia solo 25 anni. Questa attrice è la seconda protagonista di oggi. Il suo nome è Sofia Loren. Sofia Loren. Anna verrà col suo modo di guardarci dentro. Dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare. Oh, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Destini incrociati. A Destini Incrociati, Anna Magnani, vincitrice del primo premio Oscar come attrice protagonista nella storia del cinema italiano e una giovane promessa degli schermi di prorompente bellezza, stanno incrociando i loro destini in vista di un nuovo trionfo hollywoodiano. Della prima sappiamo che negli anni 50 domina la scena cinematografica, della seconda, Sofia. Ne ripercorriamo ora la storia. Sofia Scicolone nasce a Roma il 20 settembre 1934 e la sua bellezza non è un caso. Mamma Romilda è a sua volta una donna bellissima che nel 1932 vince un concorso quale sosia di Greta Garbo. Il padre, Riccardo, figlio di un marchese, non sposa Romilda che, semplice insegnante di pianoforte e in ristrettezze economiche, decide di trasferirsi a Pozzuoli, dove risiede la famiglia di origine. Nella cittadina campana Sofia cresce, diventando sempre più bella e sognando assieme alla madre una carriera nel mondo dello spettacolo. I soldi sono sempre pochi e Pozzuoli non è certo il posto più giusto per emergere, ma Roma non è lontana e madre e figlia decidono di conquistarla. Piene di sogni, racimolati i pochi risparmi, prendono un treno per la capitale, dove troveranno alloggio nella stanzetta di una pensione di periferia. Il loro viaggio, a differenza delle ciociare Cesira e Rosetta, non è così drammatico, ma gonfio delle medesime speranze di una vita migliore. A Roma non è facile farsi strada, ma le due donne, inseparabili e determinate, si presentano ai provini nei teatri di posa di Cinecittà. In uno di questi, Sofia incontra il grande Totò, un primo segno del destino. La prima volta che ho incontrato Totò è stato in un teatro di posa, proprio appena sono arrivata a Roma, e lui mi ha visto da lontano, così, perché lui era uno che aiutava molto la gente che stava in teatro a guardarlo, così mi ha visto e ha detto: tu muori fama. Proprio non è che mi muori fama, però qualcosa a mangiarsi. E allora lui mandò il cameriere a prendermi una cosa da mangiare al bar e poi mi regalò 100.000 lire, che per me, io mi sentivo ricca. Ricche Sofia e Romilda non erano, ma piene di iniziativa sì. Si presentano a ogni audizione per film, fotoromanzi, concorsi di bellezza, tra i quali Miss Italia. Poi nel 1951 un altro incontro e una vera svolta. E durante uno dei tanti concorsi che un emergente produttore, Carlo Ponti, che da poco ha fondato una casa di produzione in società con Dino De Laurentiis, la nota. Colpito dalla bellezza e da una certa capacità della giovane donna di muoversi a suo agio di fronte al pubblico, le propone un contratto di 7 anni. Lei non ci pensa due volte e lo firma Sofia Villani Scicolone, anche se presto sarà conosciuta solo con il nome d'arte che lo stesso Ponti le suggerisce, Sofia Loren. Ma è la partecipazione di Sofia a un piccolo film del 1953 che fa innamorare Carlo Ponti definitivamente. Si intitola Africa sotto i mari. Sofia, abbronzata, bellissima, non ha ancora 20 anni, 22 in meno di lui, ma di lì a poco inizierà il loro lungo amore. Nel settembre del 1957, Ponti, come nel costume dell'epoca, ne chiede solennemente la mano alla madre Romilda. Il loro matrimonio durerà 50 anni, fino alla morte di Ponti nel 2007. Mentre Anna Magnani è consacrata come la più grande attrice italiana del periodo, e prova ne è il fatto che nel 1957 riceve una seconda nomination agli Oscar per Selvaggio e il vento, Sofia, ormai divenuta Loren per l'arte e Ponti per l'anagrafe, ne sta divenendo la maggiore antagonista. Ha imparato a recitare e migliora sempre più grazie anche all'aiuto dei numerosi colleghi che incontra sui set. Ma è soprattutto la bellezza prorompente, esplosiva, conturbante a renderla l'attrice del momento e a farle conquistare una celebre copertina su Life Magazine nel 1955. Nello stesso anno incontra per la prima volta sul set di Peccato sia una canaglia di Blasetti il suo futuro partner per eccellenza, Marcello Mastroianni. Il famelico ululato di Mastroianni di fronte a Sofia, che si spoglia per lui nella famosa scena di Ieri, Oggi e Domani, film del 63 di De Sica, premio Oscar come miglior film straniero, vale più di ogni parola per sottolineare la potenza della sensualità dell'attrice napoletana, che non ha bisogno di togliersi niente più che la sottoveste per entrare nell'immaginario erotico collettivo di milioni di spettatori per i successivi 50 anni. Quello con Mastroianni è per entrambi un sodalizio artistico più importante di una carriera, che li porterà a girare assieme ben 14 film. Insieme formano la coppia più popolare del cinema italiano. Conquistano uomini e donne, tanto che i loro incontri e successi si moltiplicano nel tempo con nuovi modelli, prototipi dell'Italia monocolore anni 50, con uomini con fidanzate maggiorate e furbe come Sofia, ma alla fine di buon cuore. I due, oltre che colleghi, sono anche amici veri, fraterni, capaci di un'empatia profonda che sanno con naturalezza riproporre sui set. Nella scena che ascoltiamo, tratta da Matrimonio all'italiana, lo dimostrano anche nella drammaticità del contesto. Tommy, uno di quei tre figli a te. E chi ti crede? Uno di quei tre è figlio a te. Ma state zitti. Ti potevo dire che erano tutti e tre figli tuoi. Ci avresti creduto, te lo facevo credere. Ma solo uno è figlio tuo. Non è vero, non può essere vero. Me l'avresti detto allora, per tenermi legato. Legato tu? Me l'avresti fatto ammazzare. Solo per me è vivo. O figlio tuo. E qual è? Non mi ricordo. Per me sono uguali tutti e tre. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zu. Zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zu. Zubi zu means that I love you. Se la Filomena Marturano di Matrimonio all'italiana dichiara di avere tre figli, la sua interprete Sofia nella vita si ferma a due, entrambi avuti con Ponti: Carlo Junior nel 1968 ed Edoardo nel 1973, oggi regista cinematografico. La vita sentimentale di Sofia è infatti ben più solida di quella di Anna. Mentre il matrimonio della prima dura 50 anni e non se ne conoscono pause o divagazioni, la seconda esce ed entra in maniera sempre turbolenta dalle sue storie amorose. Quando con Roberto Rossellini sembra trovare finalmente un equilibrio sentimentale e artistico, l'arrivo di Ingrid Bergman, l'attrice di origini svedesi, che darà tre figlie al regista e lo strapperà dalle braccia di Nannarella, porta nuova solitudine nella vita di Anna, che riversa ancor più il suo amore sull'unico e amatissimo figlio Luca, che sarà per tutta la vita l'unico suo vero grande amore. Luca Magnani riassume il loro intenso rapporto con queste parole. Beh, è stata un'infanzia bella, particolare, comunque movimentata, anche perché poi, voglio dire, mia madre nella vita ha avuto dei ruoli molto diversi, uomo di casa, donna di casa, ha dovuto affrontare dei problemi all'epoca non indifferenti, non si è mai appoggiata a un uomo a livello professionale, sia non ha mai sposato un regista, non ha mai sposato un produttore, per cui si è costruita da sola in un periodo in cui la posizione delle donne non era certo quella di oggi, per cui è stata una lotta molto molto molto difficile. Era un personaggio scomodo, proprio per cui gli uomini avevano anche paura di lei, nel senso che era un personaggio anomalo, ma lo era anomala anche fisicamente, ossia all'epoca andavano di moda le bionde, le permanenti, sì, le unghie, sì, laccate, invece lei è arrivata, era una cosa nera, era un personaggio incredibile, voglio dire, che ha rotto tutti gli schemi, per cui voglio dire, tutto questo ha portato la mia infanzia ad avere una mamma particolare, chiaramente, per cui non la solita mamma, non il solito rapporto madre-figlio, era un altro rapporto. Insomma. Due donne diverse, le due dive italiane, eppure del tutto simili nella loro capacità, come si direbbe oggi, di bucare lo schermo. Contese dai migliori registi dell'epoca e immensamente amate dal loro pubblico, all'inizio degli anni 60 hanno finalmente l'opportunità di incrociare il loro percorso artistico lavorando insieme in un film di grande livello, tratto da un altrettanto eccellente romanzo italiano. L'idea di vedere fianco a fianco Anna e Sofia, sommare le loro immense potenzialità per ottenere un risultato irripetibile, fino a quel momento, stuzzica la fantasia di produttori, registi, sceneggiatori. A crederci con più forza di tutti è Vittorio De Sica, che, supportato da Goffredo Lombardo della Titanus, chiama al suo fianco il grande sceneggiatore Cesare Zavattini per trasferire sullo schermo il romanzo forse più riuscito e drammatico di Alberto Moravia, La Ciociara. La luna se n'è scesa, mi è via. sto camminando ma non sa ciò che viene. E sono all'intrasatta di Maria e ogni campana in un martiello mietta a me. Poma cumbara chiese di un doscuro mi ferma a sospirare. Destini incrociati. A Destini incrociati, le due attrici più amate del cinema italiano, Anna Magnani e Sofia Loren, sono a un passo dal realizzare un sogno collettivo: recitare insieme in un film di alto livello emozionale. È il 1960. La Titanus, Carlo Ponti, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini e Alberto Moravia stanno unendo le forze per realizzare questo sogno. Nei loro intenti, Anna sarà Cesira, la madre, e Sofia, Rosetta, la figlia. Sara ha cambiato completamente la mia vita. Ma se convincere Sofia Loren a interpretare il ruolo che le cambierà la vita non è certo un problema. Non si sono invece fatti i conti con il difficile carattere della Magnani e con le sue idee in merito alla trasposizione del romanzo moraviano. Sentiamo cosa pensa Anna di se stessa e dell'arte di recitare. Un'attrice, un attore, un artista è una cosa molto difficile da definire. Non so, qualcuno prima di me l'ha detto, sono degli egoisti, degli egocentrici, un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori. Egoisti, egocentrici, esibizionisti. Le parole di Anna svelano ciò che pensa veramente del suo ruolo di prima attrice italiana dell'epoca e di se stessa. Non lo dice apertamente, ma è molto probabile che non voglia e non sente il bisogno di dividere la scena con la sua principale antagonista del momento. Ma le argomentazioni che ufficialmente porta al riguardo sono di diversa interpretazione. Anna ritiene che Rosetta, descritta da Moravia nel romanzo come una caprettina, una cosuccia fatta di niente, sia un ruolo che per nulla si addice alla bellezza prorompente, alla fisicità esuberante da maggiorata di una Loren che allora, a 25 anni, è all'apice della sua avvenenza. Forse mal sopporta la fama internazionale di Sofia e il farle da madre, inoltre, ne sottolinea sostanzialmente l'età ormai matura. Lo dice chiaro, in faccia a tutti, di fare la madre a quella stangona, come Anna definisce la Loren, non ne vuole sapere. Litiga con Ponti, con Lombardo, rifiuta le implorazioni di un De Sica che fino all'ultimo cerca di convincerla. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, eppur sei tu, soltanto tu che io bramo. Tu che mi fai piangere. Così canta un giovane De Sica nel 1937. Ma piangere e implorare non basta per Anna. E a farlo idealmente sono in molti. Sanno che un'occasione così non ricapiterà. Anna non cede, ma nell'andarsene dal progetto lascia un seme, lascia un'eredità. Che sia la Loren, suggerisce a interpretare Cesira, la madre. Basterà invecchiarla di poco, abbassare l'età della figlia, che nel romanzo ha invece 18 anni. L'idea prende corpo. Zavattini si mette all'opera per riscrivere la sceneggiatura. Anna se ne va e non tornerà più sulla decisione presa. Sofia invece accetta e sembra persino gradire il fatto che per una volta non è legata alla bellezza per recitare, percependo di avere la possibilità di mostrare esclusivamente il suo potenziale artistico. Il destino delle due attrici, che le avrebbe viste duettare in un film straordinario e che per un istante si sta fissando nella realtà, prende così un'altra strada e crea un futuro alternativo che si presenterà con le sembianze di una statuetta. Donne allo sbando senza compagnia, negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventura, e se hanno fatto molti sbagli sono piene di paura, le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio paghi senza giorno e dolore. Donne. L'interpretazione di Sofia è indimenticabile. Riveste il ruolo con naturalezza e intensità, diretta da un De Sica particolarmente ispirato. Al suo fianco un'esordiente ragazzina napoletana, Eleonora Brown, che riesce a tenere il passo di Sofia, e un cast di alto livello composto da Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone, Pupella Maggio, tra gli altri. Sofia vince la Palma d'Oro a Cannes, il David di Donatello, il Nastro d'Argento, il BAFTA e naturalmente l'Oscar nel 1962. È la seconda volta per un'italiana, ma la prima in assoluto per un ruolo recitato in lingua non inglese. Ho passato veramente la notte in bianco e sono ancora talmente emozionata che veramente non riesco a trovare le parole adatte per esprimere tutto quello che sento in questo momento. Da quando ho saputo che avevo vinto l'Oscar, io veramente non ci credevo, guarda. Non ci credevo perché è la prima volta che succede nella storia del cinema che un'attrice italiana prenda un premio, un Oscar, per un film italiano. Quindi avevo delle speranze, sì, fino all'ultimo momento, ma naturalmente... Sofia vince l'Oscar, anzi, vince tutto. Avrebbe avuto lo stesso successo interpretando Rosetta. Anna, accettando il ruolo, avrebbe vinto a sua volta un premio, lo avrebbero vinto entrambe. Oppure le due dive si sarebbero annullate, magari facendosi ombra reciprocamente. Non lo sapremo mai, naturalmente, ma un esercizio di fantasia è certamente concesso. La Magnani ormai è sempre più selettiva nello scegliere i ruoli e qualcuno giura pentita per avere rifiutato la Ciociara. Nel 1962 recita per Pasolini Mamma Roma, un film non riuscito, nonostante la stima reciproca tra lo scrittore regista e Nannarella. Gli anni 60 non le offrono più molto a livello cinematografico, così si rituffa nel teatro, interpretando La Lupa di Verga, diretta da Franco Zeffirelli, e Medea, che la vedono trionfare su tutti i più grandi palcoscenici d'Europa. I primi anni 70 la vedono impegnata anche con la televisione, e del 1972 è la sua ultima apparizione sugli schermi in Roma, di Federico Fellini. Un tumore al pancreas la porta via il 23 settembre 1973. Ad assisterla fino all'ultimo i due grandi amori della sua vita, il figlio Luca e Roberto Rossellini, che non ha mai dimenticato la sua Nannarella. La carriera di Sofia, nel frattempo, non conosce interruzioni e nel 1991 vince il suo secondo Oscar, questa volta per la carriera. Ladies and gentlemen, Miss Sophia Loren. Thank you very much, Gregory, and every friend and every colleague. Your generosity fills me with happiness and great pride. I remember my first Oscar. It was so overwhelming for me that the terror of having to face you all made me find so many excuses not to be with you 30 years ago. Tonight I'm still scared, but I'm not alone. And I will share this eventful evening with the three men in my life. My husband, Carlo Ponti, without whom I wouldn't be the person I am today, and my two sons, Carlo Jr. and Edoardo. È certamente un grande onore quello che l'Academy le attribuisce a soli 57 anni. Dopo la Ciociara, la carriera di Sofia era infatti decollata. Ai già menzionati Ieri, Oggi, Domani e Matrimonio all'Italiana fanno seguito numerosi successi e ulteriori premi. Una stella nella Walk of Fame a Hollywood, il Leone d'Oro alla carriera, il Cavalierato della Repubblica Italiana, e nel 1999 risulta essere una delle 25 più grandi star femminili del cinema americano di tutti i tempi. Unica italiana a figurare tra le star più note, sia fra le attrici e gli attori, sia fra i registi, nei primi 100 anni di vita del cinema. Una vita e una carriera perfette, da sogno, soltanto appena offuscate nel 1982 da un'incarcerazione nel penitenziario di Caserta per 17 giorni a causa di vecchi problemi col fisco italiano. Poca cosa, subito perdonata dagli ammiratori, che la Loren vanta in ogni angolo del pianeta. Oggi, dopo la morte di Carlo Ponti, vive tra l'Italia e gli Stati Uniti, costantemente invitata a spettacoli televisivi, cerimonie, mostre cinematografiche e per qualche cameo in importanti produzioni, come nel recente Nine di Rob Marshall, nel quale interpreta la madre di Daniel Day-Lewis. Interminabile la lista di attori, produttori, registi italiani, americani o francesi con i quali Anna e Sofia hanno intrecciato le carriere e in molti casi sono stati i medesimi per entrambe. Loro invece si sono soltanto sfiorate, annusate da lontano, da quegli animali da palcoscenico che sono state, e i loro destini si sono compiuti separatamente, ma con un identico risultato: entrare nella storia del cinema mondiale, nei cuori e nelle menti degli incalcolabili ammiratori che hanno ovunque, e fare della bellezza un'arte e dell'arte del recitare un sublime momento di grazia. Nella speciale cerimonia della nostra fantasia, il premio che assegniamo è pari merito. And the Oscar goes to Sofia Ennanore. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.